L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Andiamo a visitare un museo, andiamo a teatro, andiamo all'opera, ci andiamo restando a casa questo 25 aprile anomalo. Suona per noi l'orchestra del Teatro Regio di Torino. Buon sabato, ben ritrovati da Anna Migliorati. Quanta cultura abbiamo avuto in queste settimane? Cultura online, cultura a distanza, ma anche cultura gratis a porte aperte. E se in questi ponti di primavera non ci muoviamo da casa, con i nostri tablet, smartphone, computer, ci siamo invece mossi parecchio. Abbiamo consumato arte. Cosa ci resta in eredità? Saluto Sebastian Schwarz, sovrintendente del Teatro Regio. Andiamo a Torino. Buongiorno, buongiorno. L'operazione di trasferire online quel che si poteva è andata bene e ha riservato anche delle belle sorprese, mi pare di capire. Infatti è andato molto bene e abbiamo aumentato la nostra platea. Cioè il teatro è bello, è grande, ma ci limita a quelli che possono veramente fisicamente venire a Torino, no? Mentre in questo periodo arrivano tanti anche da fuori. Abbiamo nella sala virtuale, come la chiamano, abbiamo 35% di stranieri, tutti di tutta l'Europa e da fuori Europa, più che altro Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. A brand, riconoscimento del brand del Regio, queste iniziative hanno funzionato molto bene. A quanto è arrivata la vostra platea virtuale, chiamiamola così? Da Opera on the Sofa, cioè dove si potevano vedere le opere sempre un atto ogni sera, no? Fino a 100.000 utenti che hanno visto La Carmen, Nabucco, questi erano i due titoli più amati. Una platea normale, fisica, di quanto sarebbe? Tutto esaurito, sono 1.600 posti al Regio. Quindi come se avessimo fatto 60 recite. In un mese e mezzo, ben più di una recita al giorno, molto più di quanto non sarebbe accaduto dal punto di vista fisico. Dal vivo. Sì, fisicamente non sarebbe stato possibile raggiungere così tante persone, no. Qual è la lezione che vi portate a casa da questa esperienza? Questa è una buona domanda, perché la lirica, come anche il teatro, è un'arte che necessita l'esperienza dal vivo. Questo non cambierà mai e nessun virus e nessun'altra esperienza nel mondo cambierà quello. Cioè lo spargere della voce in una sala, il ritorno dell'acustica, no? Mi arriva il suono diretto dal cantante che vedo e dalla bocca del cantante, ma mi ritorna anche il suono dall'acustica della sala e in ogni sala diversa. Però da questa esperienza vi resta un'eredità diversa anche di conoscenza del pubblico, di un pubblico potenziale? Esatto, è quello che stiamo cercando di fare, di rimanere, perché chi può venire a teatro tutti i giorni, no? Impossibile, mentre un atto al giorno in questa maniera si può fare, anzi forse molto di più parte della vita di chi ci segue sui social media in questa maniera che nella realtà, nella vita normale. Quindi capire come possiamo accompagnare, diciamo, quando si riuscirà a riaprire il teatro, come possiamo accompagnare quella esperienza con quella del digitale, di mantenere, diciamo, un'offerta stabile di ogni giorno, di mantenere un'offerta a chi non può venire fisicamente. Qua parlo sia di pubblico dall'estero, da lontano, che anche di persone malate, persone anziani, persone... O magari un pubblico vicino, come giustamente diceva, che non regge le tre ore, ma che esatto. In qualche modo si può comunque avvicinare. Tra l'altro il vostro non è materiale fatto apposta, è materiale che voi avevate. Teatro delle prove generali, quindi un po' rivelato, aperto il sipario per far vedere cose che di solito non si vedono. Una delle tante esperienze di questa settimana, tanto che al MIBACT, il Ministero della Cultura, si pensa ora in grande, si parla di un Netflix per i contenuti culturali. Insomma, questi numeri possono far pensare ad una cultura online a pagamento e che vada oltre l'esperienza in emergenza, anche perché i conti sono amari dall'altra parte. Soltanto a Milano e soltanto i musei civici hanno perso 400.000 euro a settimana di introiti, e le settimane ormai sono parecchie. Ma parliamo di decine di musei, siti archeologici, teatri che già non viaggiavano in ottime acque. Le stime parlano di perdite per 5 miliardi solo per il mese di febbraio e incassi azzerati a marzo, ad aprile, e vedremo. E quindi con la ripartenza un canale in più potrebbe fare comodo. Ma sarà possibile? Saremmo disposti a pagare? Allora cerchiamo di farci un'idea più chiara. Io saluto Mattia Morandi, capo ufficio comunicazione nel BIBACT, la persona che direttamente proprio in queste settimane ha seguito le tante iniziative di cultura online. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo dovuto trasportare gran parte di tutte le iniziative che erano state organizzate dai nostri istituti in un ambiente digitale, quindi essendo stati chiusi i musei, cinema e teatri, c'è stata inizialmente un po' di sfasamento, ma poi subito una reazione immediata per portare tutto sulle piattaforme digitali. E da subito c'è stato un grande apprezzamento per questo palinsesto, diciamo, nuovo. Come sono i numeri? Come è andata? Ma i numeri sono molto buoni. Noi avevamo un canale, per esempio YouTube, che è cresciuto rapidamente. Siamo ora sui 30.000 iscritti al canale. Nei primi giorni caricavamo almeno una decina di video ogni giorno da musei, dai parchi archeologici, dagli archivi, dalle biblioteche, dai teatri. Abbiamo inizialmente una maratona digitale di 18 ore sul nostro canale che si è chiamata L'Italia Chiamò. Lo abbiamo avuto soltanto sul nostro canale, 1 milione di visualizzazioni, tantissime, completamente inaspettate per noi. Avete intercettato anche un pubblico nuovo rispetto a prima? Beh, sicuramente sì. Non abbiamo dei dati così approfonditi che ci possano dire in questo momento qual è il pubblico, però lo vediamo anche dalle interazioni, dai commenti, dai messaggi diretti che ci arrivano sui canali social, dove ci sono anche più giovani della normalità. Questo dopo l'anno di Leonardo era attesissimo come l'anno di Raffaello. C'erano tanti eventi, tante iniziative che a questo punto la maggior parte non si faranno, e soprattutto la grande mostra al Quirinale. C'è qualcosa di recuperabile? Ma speriamo, le scuderie del Quirinale hanno sostanzialmente oscurato quella mossa. Attualmente i quadri, i disegni che sono esposti alle scuderie hanno dei drappi neri che li proteggono dall'esposizione alla luce. Si spera di poterla prorogare. C'è tutta una questione di prestiti che quindi è complicata, però poiché la situazione di chiusura delle istituzioni culturali riguarda tutta Europa e tutto il mondo, quindi potrebbe anche essere uno scenario possibile. Comunque anche le scuderie si sono trasferite, hanno trasferito la mostra sul digitale, hanno predisposto un tour virtuale di questa mostra. Ecco, adesso parlate, si ipotizza anche di una nuova Netflix della cultura. Servirà? Sarà comunque ipotizzabile a quel punto il pagamento di una cultura online? E soprattutto, riuscirà la cultura a passare davvero online quando si potrà vivere di nuovo da vicino? Ma forse sì, in qualche modo sì, si è compreso l'importanza, e quindi se è vero come è vero che i musei i luoghi della cultura sono dei veri e propri servizi pubblici essenziali per la comunità, allora forse bisogna anche pensare che bisogna garantire questa possibilità di accedervi anche negli spazi digitali. Quindi abbiamo cercato di raccogliere in una pagina del sito del Ministero dei Beni Culturali tutti i tanti virtual tour che i nostri musei, archivi, biblioteche hanno realizzato, e questo per rendere più facile la fruizione, perché intanto che alcune consuetudini, anche quindi quella di andare al museo, non vengano perse. Vedremo cosa succederà anche per questo settore. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Piccole economie nel carrello della spesa. Cultura a parte, scendiamo anche però nel nostro carrello, dove ci aspetta Marco Colombo, carrello in mano, per capire anche come è andata la settimana. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Abbiamo notato una serie di acquisti molto particolari. Le uova è più 30%. La gente compra molti formaggi, compra tante mozzarelle, molto grana, le crescite sono anche qui dell'ordine del 25-27%. Più frutta, in particolare più agrumi. Un'altra area che invece soffre, al contrario, sono i prodotti preparati, intesi come le verdure pronte, le verdure usate prima per questioni di fretta e di preparazioni rapide. Siamo pronti per la ripartenza? Ma intanto stiamo sistemando la casa. Abbiamo visto nell'ultima settimana crescite molto forti di antitarme che ci hanno permesso di fare il cambio degli armadi e quindi di metterci di fatto nelle condizioni di essere pronti a casa per poi poter uscire. Diciamo che siamo passati direttamente dall'armadio dell'inverno a quello quasi dell'estate. Sì, esatto, proprio così. Buon fine settimana e 25 aprile anche a tutti voi. Alla prossima, anche da parte mia, ancora un buon sabato da Anna Migliorati, come sempre l'appuntamento anche sul nostro sito www.radio24.it, l'economia delle piccole cose.